A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Il tappeto rosso è a terra, le tende raccolte, le piante sistemate per la sfilata delle autorità che a breve arriveranno. L'aula magna del Palazzo di Giustizia si apre per l'ingresso delle sue più alte toghe nella più ufficiale delle cerimonie, l'inaugurazione dell'anno giudiziario, tra ermellini e pompa magna, ma quest'anno senza proteste. Questo però è anche il giorno della radiografia più profonda della giustizia, del suo funzionamento come dei suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato. E da qui allora, da quest'aula in cui risuonò il triplice resistere, da questo palazzo divenuto simbolo della stagione degli scontri tra magistratura e politica, ormai alle spalle, partiamo per un viaggio nei tribunali italiani. Di là dalle nubi che si erano addensate sul nostro impianto costituzionale e ci fa ben sperare sul mantenimento del quadro istituzionale fondato sui valori e principi fondamentali affermati nella nostra Costituzione. Come dall'autunno alla primavera, quando è l'aria a cambiare profondamente. Nei rapporti tra politica e giustizia, le nubi, sentenzia il primo magistrato italiano, Ernesto Lupo, si sono diradate. È così che le tradizionali cerimonie di apertura dell'anno giudiziario quest'anno certificano l'inizio di una nuova stagione, dove tutte le parti concorrono al capezzale di una giustizia che resta sì molto malata sotto il peso dei suoi 9 milioni di processi arretrati, ma che torna al centro del dibattito come servizio, per dirla ancora col primo presidente della Cassazione. Ma la primavera è pur sempre una stagione fugace di cui cogliere l'attimo, concorda Michele Vietti, vicepresidente del CSM, che in questa intervista con A ciascuno il suo parla della vecchia come della nuova stagione della giustizia italiana, da Berlusconi col suo processo Mills al governo tecnico col DDL anticorruzione. Non c'è dubbio che il clima è cambiato. Noi abbiamo vissuto una lunga stagione in cui parlare di giustizia voleva dire immediatamente erigere muri contrapposti di pregiudizi ideologici, determinava una situazione di assoluto impasse, per cui nonostante grandi proclami di altrettanto grandi riforme, poi di fatto non si è riuscito a fare pressoché nulla. Certamente l'avvento del nuovo governo ha determinato una situazione più distesa, si è forse finalmente passati dal discutere di giustizia come potere contrapposto agli altri in un braccio di ferro permanente con l'esecutivo e il legislativo a giustizia intesa come servizio per il cittadino. Il fatto che la relazione al Parlamento del ministro Severino abbia ottenuto il voto favorevole di una larghissima maggioranza trasversale in Parlamento è quasi un piccolo miracolo che sarebbe stato impensabile solo qualche mese fa. Bene, bisogna che di questo clima si approfitti finalmente per tradurlo in opere, per passare dalle parole ai fatti. Ecco, in testa, diciamo, alle priorità per soccorrere una macchina giudiziaria che i numeri dicono essere ancora in affanno, quale ci dovrebbe essere? Il problema dei problemi è l'eccessiva durata dei processi. Noi abbiamo tempi processuali che ci attribuiscono la maglia nera rispetto al resto del continente, che penalizzano fortemente non soltanto i cittadini, ma il sistema delle imprese. Bisogna che noi affrontiamo di petto il tema della ragionevole durata. Per far questo è essenziale mettere mano alla rivisitazione della geografia giudiziaria. Il governo ha ricevuto una delega dal Parlamento per ridisegnare le circoscrizioni, 2.000 uffici giudiziari collocati in oltre 3.000 edifici sono un lusso che non ci possiamo permettere. In questa direzione, in nome quindi di una ragionevole durata del processo, va anche la sua proposta di una revisione del sistema di impugnazioni e secondo lei ci sono anche gli estremi per riprendere casomai una vecchia proposta di abolizione dell'appello in caso di assoluzione in primo grado? Noi non possiamo più permetterci il lusso di 3 gradi di giudizio per qualunque tipo di controversia. La Cassazione è inondata ogni anno da 50.000 ricorsi penali e da 30.000 ricorsi civili, il che vuol dire 80.000 ricorsi l'anno. Negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema svolge contemporaneamente la funzione di Corte Costituzionale e di Corte di Cassazione, ogni anno vengono introitati 80 ricorsi. Dunque siamo a 80 rispetto ad 80.000 e stiamo parlando degli Stati Uniti d'America. Allora non necessariamente si deve pensare a sopprimere l'appello, ma intanto si può immaginare di introdurre dei filtri per l'appello, prevedendo motivi tassativi per accedere all'appello, lasciando così alla Cassazione di valutare le sole violazioni di legge, evitando che ci siano 3 volte il riesame nel merito degli stessi fatti. Un altro aspetto dei mali della giustizia italiana è quello dei tanti processi che muoiono per prescrizione. Lei stesso si è fatto portavoce, diciamo, di una proposta forte: congelare la prescrizione. Lei la collega ad alcuni reati in particolare oppure no? Noi siamo sotto osservazione da parte dell'Europa, in particolare per quanto riguarda i reati di corruzione, in cui i termini di prescrizione sono anche qui i più brevi del continente. Abbiamo la maglia nera dei tempi più lunghi della durata del processo, in compenso abbiamo i tempi più brevi di prescrizione. Questo ovviamente determina un cortocircuito perverso, perché un processo farraginoso che si incrocia con un tempo di prescrizione troppo breve manda in fumo il processo. Questo avviene in modo clamoroso per la corruzione, ma avviene in modo abbastanza generalizzato per un gran numero di reati, alcuni anche gravi, alcuni anche che destano allarme sociale. Si pensi che negli ultimi 10 anni si sono mediamente prescritti in Italia 169.000 processi l'anno. Determina anche una generale sensazione di impunità, che è uno degli aspetti più gravi. Una prescrizione che alcune norme anche degli anni scorsi hanno ulteriormente ridotto, una prescrizione che proprio in queste ore è tornata ad essere in primo piano nel dibattito politico, perché è il filo conduttore delle battute finali di un processo che riguarda l'ex presidente del Consiglio, ossia Silvio Berlusconi, il processo Mills, vicino a sentenza ma vicinissimo anche a prescrizione. In queste ore proprio si sta consumando un nuovo scontro tra la difesa e i giudici, con la difesa che accusa i giudici di guardare più l'orologio che il contenuto. Ci sono appunto casi specifici anche come questi in cui c'è una prescrizione e una sentenza che corrono lungo un binario di poche ore di differenza. Come la veda? Io non voglio parlare dei processi di Berlusconi, perché se ne è parlato fin troppo, e un aspetto positivo del nuovo clima è quello di non dover più rincorrere singole vicende giudiziarie. È ovvio che fino a che la legge non viene cambiata, le difese approfittano della normativa esistente, e quindi se quel processo si prescriverà nessuno potrà impedirlo. Ma io credo che noi dobbiamo guardare avanti, ben oltre i processi di Berlusconi. Dobbiamo evitare questa situazione paradossale per cui prescrizioni così ridotte esasperano strategie processuali tutte volte soltanto ad allungare i tempi del processo, in modo da riuscire ad acchiappare questa benedetta prescrizione. Nel processo non c'è soltanto l'interesse dell'imputato, ma nel processo c'è l'interesse dello Stato a esercitare la sua pretesa punitiva e l'interesse delle parti lese a vedersi assicurata giustizia. Questi interessi vanno equilibrati in modo accorto e saggio. Se io interrompo la prescrizione, che non necessariamente lo devo fare in primo grado, potrei farlo anche all'inizio dell'appello, che è là dove i tempi si dilatano di più. Se io nell'appello blocco la prescrizione, a quel punto induco strategie processuali volte ad accelerare il processo per arrivare il prima possibile a una decisione ed eventualmente ricorrerla in Cassazione. Paradossalmente a questo punto potremmo anche far tornare in gioco il cosiddetto processo breve, non nel senso di istituire una tagliola che ammazzi il processo strada facendo, ma nel senso di stabilire per legge delle scansioni predeterminate di durata delle varie fasi processuali, con una responsabilità disciplinare se non vengono rispettate. Riprendendo appunto le sue stesse parole, che ha definito la prescrizione sempre una sconfitta per lo Stato, se non erro, ecco, In questa chiave è quindi anche giusto accelerare per arrivare ad una sentenza prima di una prescrizione? Beh, certo, il processo per sua natura deve arrivare alla decisione nel merito. Il processo non è fatto né per pendere all'infinito né per morire strada facendo. Quello che l'Europa ci chiede, sì, è la ragionevole durata, ma per approdare a una decisione nel merito. Il processo è fatto per stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Il sistema delle prescrizioni serve a dire che decorso un lasso di tempo viene meno l'interesse dello Stato a esercitare la sua pretesa punitiva. Ma questa durata deve essere tale per cui questo interesse viene davvero meno, non può essere soltanto un incentivo premiale per l'imputato che è più bravo a sfruttare tutte le pieghe dei riti processuali per evitare che si arrivi alla decisione, perché se no questo determina abuso del processo. Non voglio parlare dei processi di Berlusconi. Capitolo corruzione, i dati dicono che aumenta ancora, tutti la denunciano, ma l'Italia è ancora indietro soprattutto rispetto alle indicazioni dell'Europa di cui pur tanto si parla. Lei ha proposto un'agenzia di prevenzione e contrasto alla corruzione, secondo lei anche il ministro dovrebbe dare una accelerazione sulla DDL anticorruzione? Beh, il ministro in questo evidentemente dipende dal Parlamento, mi pare che abbia già sollecitato perché si arrivi ad una decisione, anche suggerendo alcune modifiche. Io ho ricordato che qui si tratta di dare attuazione ad accordi internazionali che prevedono non soltanto che per la corruzione ci siano tempi di prescrizione adeguata, ma prevedono anche che ci siano strumenti di contrasto adeguati. Noi abbiamo a suo tempo eliminato l'Alto Commissario contro la corruzione, però per dare attuazione a questi accordi noi dobbiamo istituire un'agenzia che abbia funzioni di prevenzione, di controllo e di repressione della corruzione. Il Parlamento secondo lei vi viene dietro? Il Parlamento credo che abbia la responsabilità, soprattutto in un momento come questo, di farlo presto e di farlo bene. Tra i richiami dell'Europa e i costi per i cittadini ci sono anche altri aspetti di questa inceppata macchina giudiziaria di cui torniamo a parlare nella seconda parte di A Ciascuno il Suo, a partire da una domanda. Si manda troppo facilmente qualcuno in carcere prima della condanna definitiva? A Ciascuno il Suo. La realtà del carcere ci segnala che oltre 28.000 persone risultano detenute in attesa di giudizio e sono il 42% del totale. Dietro le sbarre prima del processo. Mette il dito in uno dei problemi più sentiti e più discussi della giustizia nostrana, il guardasigilli Paola Severino. La presenza nelle già sovraffollate carceri di moltissimi indagati ancora in attesa di essere giudicati. Ma troppo facilmente si manda qualcuno dietro le sbarre? E poi, cosa fare sull'immediato per far fronte alla vergogna, per dirla con le parole del primo presidente della Cassazione, dell'emergenza di carceri che scoppiano? Depenalizzare i reati è una proposta lanciata da più parti e allora da qui ripartiamo con la vicepresidente del CSM, Michele Vietti. Non c'è dubbio che se noi guardiamo il dato vediamo che il 42% dei detenuti non ha ancora subito una condanna definitiva, è un numero assolutamente anche qui anomalo. Dopodiché però il primo presidente ha ricordato nella sua relazione che anche questo è in parte effetto di un errato sistema delle prescrizioni. Nella convinzione che è difficile far arrivare a decisione finale un processo, si finisce per anticipare la pena che si sa che non si potrà irrogare in via definitiva alla fine. Si fa scontare a quello che non è ancora un condannato, ma è soltanto un imputato, una pena che si teme non gli si riuscirà a comminare in futuro, e anche questo è un effetto perverso. In questo, diciamo, New Deal, se possiamo definirlo così, nei rapporti tra politica e giustizia, secondo lei c'è spazio anche per riaprire ad esempio un dibattito spinoso e complicato come quello sull'articolo 68, immunità per i parlamentari? Non mi pare che tiri aria di parlare di immunità dei parlamentari. Certo, il tema esiste, è un tema serio, è il tema di trovare una sorta di ammortizzatore che eviti le frizioni dirette tra l'iniziativa giudiziaria e le prerogative parlamentari. Tuttavia, penso che in questa fase ci dobbiamo affidare alla responsabilità dei partiti, che selezionino il proprio personale con il massimo di rigore, fissando un'asticella più alta rispetto a quella del codice penale. E invece per una discussione su una riforma dell'ordinamento giudiziario ci potrebbe essere necessità di avviare una discussione su delle riforme, oppure quelle recenti, diciamo, già fatte bastano? Lei ad esempio nel suo libro La fatica dei giusti parla anche della necessità di coprire il vuoto tra il giudice tecnico e il giudice eletto. L'ordinamento giudiziario è stato riformato nel 2006 e nel 2007, e non facciamoci prendere dalla smania di cambiare continuamente le regole del gioco strada facendo. L'ultima cosa che le chiedo, glielo chiedo da vicepresidente del CSM e da avvocato: il presidente Lupo ha definito un'anomalia italiana la presenza di troppi avvocati. Questo lo ammettono gli stessi avvocati, che il loro numero è spropositato. Il tema vero è anche qui l'esigenza di un intervento normativo che regoli diversamente l'accesso alla professione e all'esame di Stato. E dopo gli anni del resistere, delle toghe a lutto, della Costituzione portata in braccio o delle cerimonie abbandonate alla relazione del rappresentante del governo, oggi l'inaugurazione nelle corti d'appello non sarà accompagnata da alcuna protesta dell'Associazione Nazionale Magistrati, e questo non succedeva da anni, calcola il presidente Luca Palamara. Negli anni passati abbiamo vissuto una situazione nella quale la magistratura come istituzione era costantemente sotto attacco. Più in generale, assistevamo ad una serie di riforme annunciate che, anziché andare nella direzione del miglioramento del servizio, rischiavano di minare da un lato l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e dall'altro di rendere ancora più difficoltoso l'esercizio della giurisdizione. Non ci saranno iniziative di protesta, perché anche la magistratura fa parte dello Stato, è consapevole del momento di difficoltà che vive il Paese ed è pronta all'assunzione di responsabilità. Da quanto tempo non succedeva un'inaugurazione dell'anno giudiziario senza immagini di proteste? Un bel po', li avete calcolati? Diciamo che non è nel DNA dell'Associazione Nazionale Magistrati o della magistratura quella di cavalcare forme di protesta. La magistratura intende far sentire la sua voce quando è in presenza di situazioni, di riforme o di iniziative che mettono a repentaglio quelli che sono i valori sedimentati nella Costituzione. Laddove questo non accade, la magistratura invece deve svolgere in maniera più chiara e più netta, come quello che sta avvenendo in questi giorni, una fase propulsiva anche per sfatare il tabù nell'inaugurazione dell'anno giudiziario come momento nel quale c'è solo, come dire, una sorta di lamentela e quei numeri drammatici che dicono che la giustizia fa male. Dobbiamo prendere spunto e occasione questa volta invece per lanciare forte l'attenzione su tutte quelle situazioni che necessitano di interventi urgenti. Quale dovrebbe essere secondo voi il primo? Io reputo molto importante che oggi sia una grande attenzione al tema della giustizia civile. Per quanto riguarda il penale, anche il primo presidente di Cassazione, collegandolo anche al sovraffollamento delle carceri, ha lanciato la proposta, la necessità di una depenalizzazione dei reati. Tutta una serie di illeciti indubbiamente possono essere degradati ad illecito amministrativo. È assurdo che ancora una guida senza patente impegni 3 gradi di giudizio. Un processo penale che ha sottolineato anche il presidente Lupo vede molto spesso anche il ricorso alla custodia cautelare in carcere. Secondo lei ci sono stati degli eccessi? Potranno esserci stati degli eccessi. Dobbiamo pure dire dall'altro lato che ci sono stati spesso degli interventi schizofrenici del legislatore, che da un lato si chiede attenzione alla misura cautelare in carcere, dall'altro gli interventi del legislatore che rendevano obbligatoria la custodia cautelare in carcere per determinate tipologie di reati. Mi riferisco soprattutto a quelli legati alla violenza sessuale, quando l'opinione pubblica chiaramente era scossa da gravi fatti. Il vicepresidente del CSM Michele Vietti lancia la proposta di congelare la prescrizione per alcuni reati, primo fra tutti la corruzione, e in tal modo si salverebbero, calcola, 169.000 processi. Il reato di corruzione, ad esempio, non è che viene accertato il giorno in cui la corruzione è commessa, viene scoperto magari a distanza di anni. Il nostro ordinamento funziona che il termine massimo di prescrizione, ad esempio, del reato di corruzione è 7 anni e mezzo. Ipotizzare che nell'arco di 2 o 3 anni si possano svolgere 3 gradi di giudizio sicuramente è una sorta di utopia, ragion per cui chiaramente tutto ciò che riguarda un intervento della prescrizione, in particolar modo la necessità di modificare la legge Cirielli con riferimento al reato di corruzione, dare attuazione alla Convenzione di Strasburgo, sicuramente sono iniziative degne di attenzione e che trovano la condivisione anche da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati con quello che è stato l'intervento del vicepresidente Vietti. A ciascuno il suo finisce qui, vi ricordo che per riascoltare questa come tutte le altre puntate potete andare sul sito radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra precedente trasmissione, e sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.